Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Stiamo trasmettendo da Udine, ma andremo avanti fino alle ore 21.30, ma andiamo subito con la sigla iniziale di questa trasmissione. Quella che abbiamo ascoltato era la sigla iniziale di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì qui da studi di Radio Onde Furlane in diretta e andremo avanti fino alle ore 21.30. E oggi giovedì 22 febbraio, ovviamente 2024, e ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Andiamo ora all'ascolto di questa band un po' datata come uscita discografica, e anzi la band non esiste più, loro erano i germanici Erosion. Questo è stato il loro album d'esordio, datato 1988, ci ascolteremo un paio di brani, e l'album era Mortal Agony. Erosion. Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics. È giovedì 22 febbraio. Allora, oggi spetta a me fare un breve sommario, che chi riceve così il promemoria sugli argomenti che trattiamo nelle trasmissioni già conosce, ma comunque. Allora, stasera inizieremo con una lettura. La lettura di un dialogo tra un artista buddista, che sarebbe Pippo Del Bono, e un ex brigatista tornato in libertà, che sarebbe Giovanni Senzani. Una lettura che parla appunto delle torture, della tortura sistematicamente applicata dalle forze dell'ordine contro i militanti lottarmatisti negli anni 80. E poi andremo avanti con un approfondimento sull'origine coloniale iniqua e impraticabile, come viene definita da questo diciamo studioso della questione palestinese dell'Università di Tolosa, appunto questa origine coloniale iniqua e impraticabile della soluzione a due stati relativamente allo Stato di Israele e il fantomatico Stato di Palestina. E iniziamo intanto con la lettura. Buon ascolto. Lettura da Sangue. Dialogo tra un artista buddista e un ex brigatista tornato in libertà, di Pippo Del Bono e Giovanni Senzani, Firenze, 2014. Pensi sempre che io sia lì a ricordare il passato, ma l'ho superato questo. Io penso che in questa storia non è detto che tu ce la faccia, che tu abbia la forza di andare avanti. A un certo punto potresti non averne più di forza, ed è normale, è umano. Quindi la storia si chiude per te. Non tutti reggono lo stesso tipo di scontro. Noi, con le Brigate Rosse, abbiamo fatto un errore enorme. Come guerriglia lo sapevamo che avremmo dovuto dare delle indicazioni precise ai militanti se sottoposti a un modello di tortura. C'è chi resiste alla tortura un'ora, chi due ore, chi tre ore, chi resisterà due giorni. Come insegnava il movimento di liberazione algerino, come insegnavano i movimenti rivoluzionari dell'America Latina, ai loro militanti dicevano di resistere per un certo tempo, non so, per 48 ore, poi potevano fare quello che volevano. Se gli strappavano le unghie, cose simili, come facevano? Siccome noi non abbiamo pensato fino in fondo che sarebbero arrivati a tal punto, alla tortura, lo ipotizzavamo solo in astratto. Non abbiamo detto dovete resistere tanto, non abbiamo dato dei tempi, eravamo impreparati, abbiamo voluto cercare la purezza. Allora ci sono stati dei ragazzi che in fondo erano solo vicini a noi, ma che si dichiaravano militanti, rovinandosi la vita e resistendo, mentre molti altri cedevano e tradivano anche. Ma che senso ha? E siccome in parte questa cosa l'hanno applicata su di me, posso dire che di fronte ad applicazioni di tecniche di tortura morbida, che sono più subdole, o fisica dolorosa, tu non sai come reagirà il tuo corpo. E ti garantisco che in quei 5 giorni che l'ho subita mi sono posto dei grossi problemi. Avrei preferito morire a un certo punto, però ce l'ho fatta, non so come. Ci hanno preso e la prima cosa che ci hanno fatto è stata quella di metterci nudi, solo con gli slip, con un cappuccio in testa, legati con le mani dietro. E ci hanno fatto stare in ginocchio per tutta una notte. Si capiva che eravamo in un ambiente grandissimo e si sentivano i passi di questi militari con gli scarponi che camminavano su e giù. Poi a volte smettevano e quando si avvicinavano ti davano dei calci sulle costole, perché magari eri in ginocchio e abbassavi il corpo sui talloni e resistevi al dolore insopportabile delle ginocchia. Loro lo vedevano e a sorpresa arrivavano, ti davano un calcio nelle costole e questa cosa diventava estenuante, al di là del dolore fisico. Il dolore fisico è sopportabile. La cosa più dura era pensare che cosa sta succedendo. In quanti ci hanno arrestati? Perché sentivo le voci e alcune le riconoscevo. Poi era tremendo sentire le voci delle compagne e il fatto che hanno messo le mani addosso alle compagne, le hanno toccate da tutte le parti e sentivo le voci, questa cosa è stata tremenda. Sentivo dei militari che si divertivano, le umiliavano. Questa è stata la cosa psicologicamente più forte. Poi a un certo punto ci hanno portati via, ci hanno divisi in gruppi su delle jeep. Noi siamo stati arrestati a Roma, dovevano essere passate ormai 24 ore, verso sera. E lì probabilmente devono aver meditato di farmi qualcosa, perché mi avevano messo su una jeep con un altro. Sentivo che stava male, si lamentava, gli avevano bruciato il cazzo in parte, sentivo un dolore forte, gli avevano rotto le costole, capivo chi era. Era una persona brava, ma debole di costituzione, quindi sai, se sei debole ti torturano di più fisicamente. E questo si lamentava per i dolori, ci portavano fuori città e loro hanno fatto in modo che io vedessi qualcosa, nel senso che la fascia che avevo agli occhi era allentata. Vedevo qualcosa della strada e a un certo punto ho pensato, siccome ero su una jeep aperta, questi stanno facendo apposta. Si sono fermati ai caselli pensando che uno di noi tentasse di scappare, perché sembrava che fosse possibile. Poi alla fine ho detto, questo è un trucco. Loro pensano che io mi butti e mi sparano, così finalmente chiudono. E allora non l'ho fatto. E a quel punto ci hanno portato, questa è una ricostruzione a posteriori, ci hanno portato in gruppi diversi in caserme sparse nell'agro romano. Siamo entrati, sempre bendati, dove ero io. Dovevamo essere in 2 o 3, non ho visto mai i compagni con cui ero. Ero sempre con gli occhi bendati e mi hanno detto, da questo momento voi siete fuori dalla legalità, siete nelle nostre mani, noi possiamo fare quello che vogliamo di voi, quindi faremo tutto quello che è possibile per ottenere quello che vogliamo. Siete fuori dalla legalità, capito? E saremo noi a decidere se farvi rientrare nella legalità. E allora mi sono ricordato che la notte dell'arresto, cioè la notte precedente, c'era stata una riunione del governo. Guardavo il telegiornale della TV prima di addormentarmi. C'erano i titoli della notte che dicevano che il presidente del Consiglio, alla riunione del Consiglio dei Ministri alla sera, aveva preso insieme ai ministri responsabili una decisione riguardo alla lotta contro il terrorismo che avrebbe cambiato tutto fin da subito. Tenuto conto che ormai era da un anno che non arrestavano nessuno di noi e in quell'anno, il 1981, la guerriglia aveva realizzato molte azioni, addirittura 4 sequestri contemporanei in diverse città. e l'autunno era cominciato con un altro sequestro, quello del generale Dozier. L'annunciatore del TG dava molta enfasi alla notizia, ma diceva anche che non poteva rivelare nulla. Era tutto segreto. Mi aveva colpito questa cosa del segreto. E noi ci chiedevamo, ma cosa avranno deciso? Perché noi avevamo sempre detto che se avessero arrestato qualcuno di noi in questa fase della guerriglia, avrebbero applicato un modello di tortura. Poi mi sono addormentato e l'unica cosa che ho sentito è stato un click. Mi sono svegliato per questo rumore strano, c'erano le luci accese, un click di una porta, come se il vento avesse aperto e chiuso la porta, e ho detto, ma è strano. L'appartamento era piccolissimo e poteva essere successo solo alla porta d'ingresso. Avevo dei dubbi, mi sono rimesso a dormire, ero troppo stanco. Improvvisamente mi sono svegliato con un fracasso enorme. Io ero su un letto da cui si vedeva l'ingresso, ho visto la porta che crollava giù ed entrare come dei cyborg, delle figure nere mascherate con delle tute protettive, con dei giubbotti antiproiettili e un casco in testa integrale che copriva tutto. Ho capito, e allora mi sono solo girato verso il compagno che dormiva accanto a me, che era un giovane molto miope che portava gli occhiali. Ho visto gli occhiali e la sua pistola sul comodino, la mia si vedeva dalla porta. Ho pensato, ho capito, adesso lui si sveglia, prende la pistola e loro ovviamente ci sparano e moriamo come i compagni di Via Fracchia a Genova. Come un film, a un tempo velocissimo e a rallentatore. E invece questi qua, che erano una squadra di Nox, le forze speciali antiterrorismo della polizia, sono stati tanto veloci che dal momento in cui ho visto cadere la porta al momento in cui mi sono saltati addosso sul letto sarà passata una frazione di secondo. E mi sono ritrovato con le mani legate dietro la schiena, eppure il compagno. E poi questi, agitatissimi, giravano per questo piccolo appartamento e buttavano tutto all'aria. Mi hanno messo nel bagno, in ginocchio per terra, con la testa coperta subito da un sacchetto nero. Con il mitra mi davano dei colpi sulla testa e la schiena. Io avevo la testa quasi sotto il water. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Continuavano a dire. Chi sei? Perché loro erano andati in una casa pensando di trovare dei latitanti importanti, e allora io ho preso la decisione di dire chi ero, perché volevo che i compagni fuori venissero a sapere subito che ero stato arrestato, in modo che tutti gli appuntamenti saltassero. Ho detto chi ero e loro, prima silenzio, poi, ah, l'abbiamo preso, chiamavano il loro comandante, l'abbiamo preso, è lui, è lui, è lui. E a quel punto mi hanno portato via, nell'androne, in quell'enorme salone con gli altri, e io non avrei mai pensato che avrebbero applicato un trattamento così fuori dalla legge. Come ho detto, poi ci hanno diviso in varie caserme periferiche fuori Roma, e prima di farci entrare nell'edificio mi sono dimenticato, hanno fatto la scena più a effetto. Vieni qua, inginocchiati lì. Sentivo l'aria fredda della campagna, l'umidità. Adesso la facciamo finita, ti fuciliamo, preparati. Stavo lì, fermo in ginocchio, aspettavo. Ho sentito che uno si avvicinava e puntava la pistola vicino alla tempia, aspettavo, e loro hanno fatto passare un po' di tempo in silenzio. Poi hanno fatto scattare a vuoto il grilletto. Per questa volta non lo facciamo, per ora non lo facciamo. E siamo entrati in una casa dove, dopo la finta fucilazione e il discorsino già fatto sull'essere fuori dalla legalità, hanno cominciato a fare un vero trattamento cadenzato. Si sono mossi come due squadre, una squadra di buoni e una di cattivi. La squadra dei cattivi arrivava rumorosa. Io l'ho steso legato al letto, mani e piedi, in maniera molto rigida e dolorosa. Potevo solo stare fermo con gli occhi bendati e gli slip. Venivano vicino al letto, mi controllavano il corpo, si vedeva che avevo male a una gamba più percossa dell'altra, e mi percuotevano sempre su quella gamba, mi faceva male. Poi mi passavano sul corpo qualcosa di metallico che mi raschiava, mi incideva e tagliava la pelle, e soprattutto In questa maniera non mi facevano mai dormire, quello che volevano era non farci dormire mai, per farci crollare. Quando non ci picchiavano, usavano un sistema di musiche a volume altissimo e dei rumori stridenti insopportabili, così eri sempre me, sempre sveglio. Poi dei rumori di martelli e, più tremendo, una specie di rumore di sega che non si fermava mai e ti entrava in testa facendoti impazzire. Si sentivano urla e botte dalle altre stanze, poi all'improvviso mi arrivavano addosso e mi davano una scarica violenta di botte scientifiche in diversi punti del corpo. Urlavano e mi facevano domande, non aprivo mai bocca, allora giù botte. Non parli, devi dire qualcosa, parlare, se no è giù botte. Non sopportavano che non rispondessi mai, che non dicessi nemmeno una parola. Ancora zitto e picchiavano più forte. Poi il giorno dopo è venuta la squadra dei buoni. Ora che gli altri sono cattivi, diventeranno sempre più duri, devi rispondere, dire qualcosa, se no saranno sempre più duri, provare a parlare, se no andranno in giù, ancora più pesanti. Non sopportano che non apri mai la bocca. Vuoi mangiare? No, non mangio. Vuoi un caffè? Vuoi andare al gabinetto? Mi slegavano, mi mettevano evidentemente prima un cappuccio in testa e mi toglievano la benda sugli occhi e potevo andare nel bagno accanto. C'era l'acqua del rubinetto e bevevo un po'. Loro non mi picchiavano mai, parlavano sempre. Poi ho bevuto un po' di caffè caldo che mi avevano portato. Aveva un sapore forte, come se ci fosse stata della grappa. Dopo un po' mi sono sentito strano, non mi sentivo bene, non ero lucido. Mi sembrava di perdere conoscenza. Ho stretto i denti per resistere. Loro parlavano. Ma cosa mi avete dato da bere? Ho chiesto. Caffè Borghetti, forte. Non stavo bene, mi volevano dare dell'altro caffè per tirarmi su. Non l'ho voluto, ho pensato che mi volevano dare delle sostanze tipo droga nascoste dal sapore del caffè caldo, un po' alcolico. Ho tentato di concentrarmi, di resistere, di non cedere a quella specie di sonno comatoso. Volevo stare fermo. Continuavano a offrirmi cose, ma non ho voluto più niente. Ho deciso di non bere più caffè e di non mangiare niente. L'ho deciso senza dirlo. La squadra buona è andata via. Sono tornati quelli cattivi e mi hanno pestato ancora di più. Urlavano come dei matti. Devi rispondere. Mi hanno portato da mangiare, non ho toccato nulla. E allora, dopo aver insistito, hanno cominciato a picchiarmi ancora più forte, scientificamente, in diverse parti del corpo. Devi mangiare, urlavano. Poi mi lasciavano stare e quando mi assopivo un po' venivano e mi raschiavano gambe e schiena con quella specie di tridente metallico che bruciava. Avevano aumentato la musica, i rumori insopportabili. Ho pensato che sarebbe durato a lungo il trattamento, che mi volevano far cedere un po' alla volta e ho pensato che l'unico modo per resistere era di chiudermi in me stesso e non rispondere e stare fermo, una resistenza passiva. Ed è andata avanti così per alcuni giorni. Si alternavano le due squadre con precisione cronometrica, ormai prevedevo le loro mosse e capivo anche quando arrivavano le botte, ma la situazione era pesante. Terzo giorno è arrivata una nuova persona, una persona più anziana che parlava in modo diverso, più istruito e autorevole. Sono venuto apposta per parlarti, potrei anche dirti chi sono, parlava solo lui nel silenzio generale. Io posso decidere quello che voglio e liberarti. Se parli e collabori, ti faccio liberare subito e ti faccio dare, e ha sparato una somma colossale. Hai capito? Ho il potere di farlo. Voleva che gli dessi delle informazioni per arrivare a liberare il generale Dozier. Il tipo parlava lentamente, in modo suadente, molto calmo. e mi sembrava di intuire chi poteva essere. Non mi aveva meravigliato l'offerta colossale per collaborare, ma mi aveva colpito che cercasse da me notizie e informazioni che non potevo pure dare. Possibile che non sapessero che ormai come BR eravamo divisi, separati, compartimentati, due organizzazioni distinte, separate? Non potevano dare alcuna informazione, non potevamo dare alcuna informazione, perché noi non c'entravamo nulla col sequestro Dozier. Lui continuava a parlare, come per intavolare una trattativa. Non minacciava. Se decidi di parlare, ti basta dirlo a quelli che sono qui e io arrivo subito. Pensaci bene, adesso vado via. E le due squadrette ricominciarono ad alternarsi. Il braccio di ferro tra me e loro era diventato quasi insostenibile, perché al mio continuo rifiuto totale di mangiare e bere caffè avevano risposto con una intensificazione sempre maggiore e più scientifica delle botte, in modo più subdolo per sorprendermi. Venivano, mi scoprivano togliendo il lenzuolo che mi copriva legato mani e piedi al letto, era il segnale che mi avrebbero pestato. Invece non facevano niente e io restavo teso ad aspettare la scarica delle botte. Quando mi ero convinto che avevano rinunciato, mi saltavano addosso, di sorpresa mi picchiavano ancora più forte e così mi facevano ancora più male perché impreparato. La squadra dei cattivi mi dava degli ultimatum: domani vediamo, se non mangi la finiamo con te. Lo diceva soprattutto quello che ormai consideravo il loro capo. Possiamo fare quello che vogliamo, siamo nell'illegalità. Domani decidiamo, devi mangiare. Il tono era veramente cattivo e i buoni mi dicevano che il tipo non scherzava proprio, che dovevo mostrarmi più disponibile. Almeno cominciare a mangiare. Fra me e me pensavo che si stava mettendo male, aspettavo questo domani così minaccioso. Ero preoccupato e anche stremato, ma riuscivo a resistere. E quel domani arrivò. Al quinto giorno il capo arrivò, sbrigativo, con un tono diverso. Avete vinto, i politici non accettano più che noi continuiamo così, di nascosto, con questo trattamento. Noi non siamo d'accordo, ma non possiamo più continuare, ci hanno imposto di tornare nella legalità, non possiamo continuare. Mi è andata bene. Colpa dei politici, e se ne andò. Niente botte, ma non ci credevo. Aspettavo di vedere cosa sarebbe successo. Il capo tornò. Ora andiamo via di qui, disse. Era solo, mi slegò, mi tolse il cappuccio e la benda dagli occhi, poi si tolse il suo cappuccio che lo nascondeva e mi mostrò la sua faccia. Lo faccio apposta perché voglio salutarla e dirle che il suo comportamento, la sua capacità di resistenza mi ha colpito molto, gliene voglio rendere atto. Una specie di riconoscimento militare. È finita veramente, non vi succederà più niente, adesso vi portiamo in questura, a Roma, dal magistrato. Mi voleva stringere la mano. Ero sorpreso. In questura c'erano un sacco di funzionari, erano molto gentili, mi salutavano, mi chiesero se volevo fare una doccia e sistemarmi un po'. E me la fecero fare lì davanti a loro, tutto nudo in un piccolo bagno con la porta aperta. Facevano commenti. È un fisico robusto, però ha dei segni, dicevano. Mi accorsi che oltre i segni, i lividi, avevo come delle striature, tre righe parallele rosse per gamba, che mi salivano dai polpacci fino alle cosce, al ventre e più su. Erano le tracce del tridente con cui mi raschiavano la pelle per tenermi sveglio. Calma, mi portarono nell'ufficio dove era il magistrato, un noto inquirente contro il terrorismo. Mi salutò, mi fece sedere, c'era anche il mio avvocato. Vuole un caffè? Portate un caffè, disse agli impiegati. Ma è vero, lei non beve caffè, non vuole berlo, non si fida. Lo so, mi disse, guardandomi negli occhi. Sorrideva. Non ha niente da dire? Il mio avvocato mi guardava come per dirmi di dichiarare qualcosa, come se sapesse. Ma non volli dire nulla, volli attenermi alle regole dell'organizzazione. Mi rivolsi solo al magistrato con poche parole. Lei sa che cosa avete fatto. Questa volta avete esagerato. Siete andati oltre. Sono cose che non si devono fare. Cose che non si dimenticano. Voi lo sapete cosa avete fatto. Ma non dissi neppure la parola. Tortura. Il giorno successivo, dopo una lunga dormita, ero crollato nelle celle di sicurezza della questura orrende, con tavolacci luridi, ma come mi sembravano comodi. Aprirono la porta e arrivarono due poliziotti. Mi ammanettarono le mani dietro la schiena. Qui si mette male, pensai. Ricominciano. Avevano fretta, mi avevano dato abiti e maglioni. Mi trascinarono per il corridoio e aprirono un portone. Rimasi accecato dai fari, dalle luci, dai flash, era il cortile della questura, pieno di giornalisti, fotografi, telecamere, tutti urlavano e mi facevano domande, ero sbalordito. Non aprii neppure la bocca per il solito viva le Brigate Rosse. Ero stato preso in contropiede, non potevo neppure alzare le mani e i pugni, ero ammanettato dietro la schiena. Poi seppi che tutto era stato trasmesso in diretta al TG delle 20, dando la notizia che mi avevano finalmente arrestato. Ma erano già passati 5 giorni. Mi fecero salire in un'auto della polizia e arrivai alla sezione isolamento di Rebibbia e cominciò così la mia lunga vita da carcerato. A Rebibbia, giorni dopo l'arrivo, ho scritto una lunghissima e dettagliatissima relazione diaria di quei 5 giorni. Ora per ora, giorno per giorno, sensazioni e timori e sadismo feroce, tutto. Volevo capire che cosa era successo. Mi sembrava importante scrivere tutto e dirlo poi ai compagni. Ma le pagine mi vennero trovate in cella e sequestrate. Era una relazione scritta a caldo, molto più precisa e dettagliata di questo discorso che ti ho fatto, perché cercavo di spiegare cos'era e com'era la tortura e cosa succedeva a un corpo torturato. Avevo notato tutte le sensazioni, i dolori, i dubbi, i timori, le reazioni, i momenti di debolezza e quelli di forza, in quel braccio di ferro spietato tra te e la squadra dei cattivi e quella dei buoni, e soprattutto in quel braccio di ferro con se stessi e con la propria voglia di resistere e a un tempo di cedere. Stranamente la relazione sequestrata non l'ho trovata tra gli allegati e gli atti di nessun processo che poi ho fatto in tante aule. È semplicemente sparita e questa è la prima volta che racconto tutto di nuovo dopo 31 anni. Ma mi sembra di ricordare ancora, non mi è stato difficile ricordare, certo non è un racconto dettagliato come in quella riflessione a caldo. L'esperienza della tortura rimane dentro di te. È dentro la tua carne e lì resta e resterà. Sai dove può arrivare un uomo contro un altro uomo. Quanta disumanità a freddo. È un segno che non si cancella. Non si è mai parlato di questo. Noi non volevamo parlarne, non abbiamo mai detto nulla neanche in tutti i processi che abbiamo fatto. Mi ricordo che solo i compagni del movimento tedesco scrivevano della tortura, pubblicavano riviste. Girava pure un libro sulle torture con sulla copertina la mia foto. Mi arrivò pure in galera. Ero stupito, chissà come avevano fatto a saperlo. Solo un compagno brigatista dell'altra spezione del BR, arrestato per il sequestro Doser, ebbe il coraggio e la lucidità di parlare delle torture subite, di denunciare tutto. Si era fatto fare pure le foto con le ferite. Noi allora, nella nostra parte, non apprezzavamo questa cosa, pensa un po', non dicevamo nulla, ma non eravamo d'accordo a parlarne. Forse aveva a che fare con quello che veniva chiamato essere irriducibile. Invece quel compagno, ora lo capisco e ne sono convinto, aveva ragione. Fu molto lucido, più cosciente e anche intelligente di noi. Aveva colto il senso vero della cosa, della svolta che era avvenuta nel paese. Aveva avuto un maggiore una maggiore coscienza dello scontro sociale e politico in atto. Forse ti sembreranno le solite parole da brigatista, ma quando si supera quella soglia si entra in un'altra fase. La realtà appare nuda, e non lo dico per noi, per la nostra piccola esperienza. Pensa al mondo, a quello che è successo nel mondo negli ultimi 20 anni, alla barbarie. La barbarie contro gli esseri umani e degli esseri umani. Non c'è bisogno di fare esempi. La barbarie corre sul filo dei media. Ogni giorno assorbi la tua dose di barbarie e la coscienza di questo processo svanisce, come le immagini di un film. Comunismo o barbarie, diceva Marx, non era una profezia e non è solo una frase. Stiamo ascoltando in questa band slovena, italo-slovena, se vogliamo dire Gorizia, Nova Gorica, loro sono i Pisda Materna e questo è un loro disco in 12 pollici, versione 12 pollici, uscito nel 1997. Yeah. Bene, questi che abbiamo ascoltato erano i Pisna Mater, una band di Gorizia, Nova Gorica, questa fusione italo-slovena, che comunque è un album uscito nel 1997. E adesso invece andiamo dall'ascolto di un'uscita più recente. Loro sono gli inglesi Autonomous, band dell'area di Manchester, e questo è il loro album No Man's Land, Autonomous. We'll be right back. Ecco, sono le 20:54. Siamo sempre su Zardings Magnetics. Ricordo che è un programma autogestito e che appunto Radio Onde Furlane qui a Udine ci ospita. E arriviamo al così il secondo argomento, diciamo, di questa sera, e cioè questo approfondimento sull'origine della soluzione a due stati. Si tratta appunto di un articolo di Jorge Ramos Tolosa, professore di storia contemporanea all'Università di Valencia. Prima avevo detto Tolosa sbagliando, e il quale sostiene che l'origine della soluzione dei due stati è una soluzione coloniale iniqua e una cortina fumogena per nascondere l'obiettivo finale sionista israeliano di espansione territoriale e di espulsione della popolazione autoctona. È un articolo molto approfondito che parte dal mandato britannico e addirittura prima, ma insomma comunque analizza tutta la questione, diciamo, della intricata e drammatica questione della Palestina e della sua storica oppressione della popolazione appunto palestinese. E proponiamo così questo approfondimento anche per così in occasione del fatto che anche domani è una giornata di mobilitazione, di sciopero proprio contro il genocidio che lo Stato di Israele sta compiendo ai danni di oppresse e oppressi palestinesi. Tra l'altro anche a Monfalcone ci sarà un presidio organizzato dai sindacati di base. E, proprio al cantiere domani dalle 11:30 mi sembra in poi. Allora vediamo che cosa ci dice questo articolo. La chiave per comprendere e porsi rispetto all'attuale genocidio israeliano in Palestina è che si tratta dell'ennesimo capitolo, il più terribile, di una storia di colonizzazione e decolonizzazione. Una storia di colonizzazione sionista israeliana che non rappresenta l'ebraismo o le comunità ebraiche e che mira a dominare il maggior territorio possibile con la minor quantità possibile di popolazione palestinese autoctona. Questo progetto coloniale sionista ottenne una grande vittoria nel 1948 con la creazione dello Stato di Israele e la pulizia etnica della Palestina, la Nakba, che letteralmente significa catastrofe, disastro. Ma non si esaurì in quell'anno. La colonizzazione, la pulizia etnica e l'apartheid continuano 76 anni dopo. La Nakba continua, così come i tentativi del popolo palestinese di decolonizzare la propria terra. Per colonizzare e commettere un genocidio bisogna cercare di disumanizzare il popolo colonizzato dall'inizio alla fine. Dalla sua nascita, alla fine del XIX secolo, fino ai giorni nostri, i leader del movimento sionista e dello Stato di Israele, come progetto vigente di colonialismo di insediamento, hanno usato e continuano a usare il linguaggio razzista comune ad altre esperienze coloniali europee. Questo linguaggio razzista presenta i bianchi come portatori di civiltà e i non bianchi come rappresentanti della barbarie. Il padre del movimento sionista, Theodor Herzl, scrisse nel 1896 che il futuro Stato sionista sarebbe stato una parte del muro difensivo europeo in Asia, un avamposto di civiltà contro la barbarie. Alcuni anni dopo, Herzl volle legittimare il suo progetto coloniale presentando una parte della Palestina in questo modo. I campi sembravano bruciati e gli abitanti degli anneriti villaggi arabi sembravano banditi. Nel 1914 l'illustre sionista sedicente socialista Moshe Smilansky scrisse: «Abbiamo a che fare con gente semiselvaggia che ha concetti estremamente primitivi e questa è la loro natura. Tra gli arabi sono diffusi valori di base come la menzogna e l'imbroglio. Allo stesso modo, Chaim Weizmann, che 3 decenni dopo sarebbe diventato il primo presidente dello Stato di Israele, rispose alla domanda su cosa intendesse fare con la popolazione palestinese in questo modo. Gli inglesi ci avevano detto che lì c'erano alcune centinaia di migliaia di Kushim, negri, che non contavano niente. Weizmann ha anche commentato che l'arabo è primitivo e crede a ciò che gli si dice. In questo quadro, anche se coniato in precedenza, si afferma lo slogan sionista «Un popolo senza terra per una terra senza popolo». Nel 1916 il Regno Unito annette la Palestina ottomana all'impero britannico, manifestando una connivenza col movimento sionista, con la dichiarazione Balfour del 1917. Il potere imperiale britannico fornì un sostegno strutturale determinante alla colonizzazione sionista e alla segregazione della popolazione bianca dei coloni dalla popolazione palestinese autoctona sotto il mandato britannico, che durò fino al 1948. La causa sionista era ormai associata all'imperialismo nordatlantico, che guidato prima dal Regno Unito e dopo la Seconda Guerra Mondiale dagli Stati Uniti, avrebbe utilizzato il territorio tra il fiume Giordano e il Mediterraneo come piattaforma per il suo dominio e la sua espansione in una regione chiave al crocevia tra Africa, Asia ed Europa. L'origine della soluzione dei due stati, coloniale, iniqua e una cortina fumogena per nascondere l'obiettivo finale sionista israeliano di espansione territoriale e di espulsione della popolazione autoctona, è stato proprio nel contesto del mandato britannico della Palestina tra il 1917 e 1923 e il 1948 che gli episodi di resistenza palestinese si sono moltiplicati. Le prime proteste anticoloniali palestinesi risalgono agli anni Ottanta del XIX secolo e contavano già una presenza di donne. Alcune delle prime organizzazioni sociali palestinesi dall'inizio della colonizzazione erano organizzazioni esclusivamente femminili. Nel 1929 la creazione dell'Associazione delle Donne Arabe segnò la nascita di un movimento nazionale, consolidato e stabile, di donne palestinesi. Questo movimento è andato di pari passo con il grande fermento politico palestinese degli anni 30, che ha visto la formazione di partiti di massa come Istiklal e innumerevoli proteste contro il colonialismo sionista e britannico. La mobilitazione anticoloniale e nazionale raggiunse il suo apice con la grande rivolta palestinese tra il 1936 e il 1939. Questa grande rivolta, viene anche definita grande insurrezione palestinese, iniziò nella primavera del 1936 con uno sciopero generale che durò 6 mesi, diventando il più lungo sciopero generale mai avvenuto in un territorio coloniale. L'obiettivo dei palestinesi era quello di ottenere che il mandato britannico fermasse la colonizzazione sionista e indicesse elezioni democratiche per la formazione di un governo nazionale che portasse all'indipendenza del paese. Però in questo contesto le autorità del mandato britannico in Palestina non solo respinsero tutte le richieste palestinesi, ma collaborarono con le organizzazioni paramilitari sioniste per reprimere la grande insurrezione. E proprio in questo contesto qua, tra l'altro, durante appunto la repressione di questa grande insurrezione, vediamo anche l'introduzione della detenzione amministrativa. Aspettate che trovo l'appunto che mi ero presa. Dunque. Ecco qua. E praticamente i britannici, appunto, oltre ad appoggiare le milizie sioniste, che appunto agivano con metodi, seminavano il terrore, insomma, tra la popolazione palestinese, e applicano la detenzione amministrativa, cioè l'imprigionamento senza imputazione e processo, e poi applicano anche, demoliscono le case, appunto danno fuoco ai villaggi, insomma, quindi aiutano, diciamo, l'espansione sionista anche in questa maniera qua. E proprio diciamo in questa situazione, quindi verso la fine della grande insurrezione del 36-39, il Regno Unito nomina una commissione per formulare in maniera formale quella che sarebbe poi stata chiamata la soluzione dei due stati o partizione della Palestina. Allora, questa commissione raccomandò di dividere la Palestina in un cosiddetto stato ebraico e in uno stato arabo, non ben specificato, quest'ultimo collegato alla Transgiordania, un'altra colonia britannica la cui massima autorità era un fantoccio del Regno Unito. E questa commissione britannica raccomandava anche che i britannici rimanessero in diverse località strategiche e menzionava la possibilità di uno scambio di popolazione, cioè l'espulsione della popolazione palestinese. In seguito, continua questo articolo, David Green, che è un altro leader del movimento sionista che era nato nella città polacca di Płońsk, accettò discorsivamente la partizione due stati come una strategia di primo passo che non avrebbe mai accettato nella pratica. Dichiarò David Green che se accettava la spartizione era per ottenere la legittimazione di uno stato dal quale, secondo le sue parole, annulleremo la spartizione del paese e ci espanderemo in tutta la terra d'Israele. Allo stesso modo, nel 1937 scrisse: dobbiamo espellere gli arabi e prendere il loro posto. E se è necessario, usare la forza. Abbiamo la forza necessaria. Il movimento sionista si preparò al momento chiave che sarebbe arrivato con l'intervento dell'ONU a suo favore nel 1947 e la fine del mandato britannico nel 1948. Così nel 1947 il Regno Unito consegnò il problema della colonizzazione della Palestina alla neonata ONU. Il movimento sionista era riuscito a creare un pre-stato coloniale o uno stato coloniale parallelo al mandato britannico. Nel 1947 l'ONU aveva meno di 2 anni e lo scenario coloniale in Palestina era il primo grande problema internazionale che affrontava in tutta la sua ampiezza. Dietro la retorica internazionalista di libertà e diritti dell'organizzazione dell'ONU si nascondeva un'alleanza tra le grandi potenze per perpetuare il loro dominio imperiale, il tutto in una forma rinnovata e con una nuova retorica. Come sintetizzò l'intellettuale afroamericano William Du Bois all'uscita dalla conferenza di San Francisco in cui fu fondata l'ONU: abbiamo vinto la Germania, ma non le sue idee. Crediamo ancora nella supremazia bianca, nel tenere i neri al loro posto e nel mentire sulla democrazia quando ci riferiamo al controllo imperiale di 750 milioni di persone nelle colonie. la nuova istituzione internazionale poteva essere il meccanismo perfetto per dare un nuovo volto al dominio mondiale bianco. L'alleanza tra le potenze del Nord Atlantico doveva essere rafforzata e l'impero prolungato col nuovo nome di cooperazione internazionale. E così, a partire dalla primavera del 47, l'ONU accolse vari squilibri che favorivano il movimento coloniale sionista. E il 29 novembre 1947 fu approvata la spartizione della Palestina in due stati con la risoluzione 181, non avendo consultato e tenuto conto della volontà della popolazione interessata. La risoluzione violava ancora una volta il principio di autodeterminazione dei popoli. Inoltre, questa risoluzione conteneva numerosi elementi che avvantaggiavano la comunità dei coloni. Il piano di spartizione raccomandava di creare il cosiddetto Stato ebraico sul 55% del territorio. Inoltre, le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di questo tipo hanno la natura di raccomandazioni, cioè non hanno un valore legale vincolante, e invece la risoluzione 181 non fu adottata come suggerimento o come base di negoziazione, ma come un fatto compiuto vincolante. Pertanto la spartizione ONU del 47 tra due stati era ingiusta, violava la Carta delle Nazioni Unite, violava il principio di uguaglianza tra le parti ed era stata adottata sotto costrizione. L'approvazione di questo piano di spartizione fu celebrata come una vittoria dalla maggioranza del movimento sionista che l'aveva auspicata e invece respinta dal popolo palestinese. Nel giro di pochi giorni gli episodi di violenza in Palestina si moltiplicarono e questo era il contesto che le organizzazioni paramilitari sioniste stavano aspettando per ottenere il maggior territorio possibile con la minor popolazione palestinese possibile. Ovvero l'espulsione in massa della popolazione non ebraica, quella che il popolo palestinese avrebbe conosciuto come la Nakba, la catastrofe. Ovviamente dei due stati previsti solo uno fu creato nel maggio del 48 e fu creato nel pieno di una pulizia etnica che vide circa 750.000 palestinesi diventare rifugiati. Tra le 1418 e le 615 città distrutte o sfrattate dalle truppe sioniste israeliane e la Palestina smembrata, eliminando così sul nascere ogni possibilità reale di uno Stato palestinese. Il nuovo Stato coloniale israeliano infatti fu costruito sul 78% della Palestina storica e istituì un regime di apartheid che privilegiava legalmente gli ebrei e impediva ai palestinesi non ebrei di tornare, nonostante questo fosse un diritto riconosciuto, il diritto al ritorno, anche dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al-Quds, Gerusalemme Est, e la Cisgiordania furono ammesse dalla Giordania, mentre la striscia di Gaza, i cui confini furono creati in quel momento storico, mentre era affollata di rifugiati, fu amministrata dall'Egitto. A sua volta la soluzione dei due stati continuò solo sulla carta. La guerra di giugno o dei sei giorni del 1967, che vide l'occupazione militare sine die e l'endocolonizzazione israeliana del restante 22% della Palestina, Gerusalemme Est, Cisgiordania e Striscia di Gaza, dimostrò ancora una volta, nonostante un'altra risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la 242, che chiedeva il ritiro di Israele, che la soluzione dei due stati era un'invenzione, una fandonia, attraverso la quale l'apartheid israeliano poteva continuare a portare avanti impunemente il suo progetto di colonialismo di insediamento, mentre venivano vantati sforzi che non portavano a nulla. In breve, la soluzione dei due stati è stata ed è utilizzata dai leader sionisti e dai loro complici nordatlantici come paravento per nascondere l'obiettivo finale sionista israeliano di espansione territoriale e di espulsione della popolazione autoctona. Quindi questa origine della soluzione a due stati era ed è coloniale e ingiusta, e inoltre dai primi leader sionisti fino a Netanyahu la stragrande maggioranza dei leader israeliani si è rifiutata di renderla possibile, anzi ha cercato e ottenuto di renderla una chimera. Allo stesso modo qualsiasi popolo colonizzato ha rifiutato e rifiuta di accettare che tanta parte della sua terra e delle sue case venga assegnata dal potere imperiale a un progetto coloniale che brama di espellerlo e rifiuta di far sentire la sua voce. E arriviamo agli accordi di Oslo al 1993. Il 13 settembre del 1993 si svolse una pomposa cerimonia alla Casa Bianca a Washington, ospitata dal presidente degli Stati Uniti di allora Bill Clinton. Vide la partecipazione di Yasser Arafat, presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP, dal 1969, e di Rabin, primo ministro israeliano, per la seconda volta dal 1992. E appunto ci fu quindi questo accordo di Oslo e poi numero uno, e poi entro il 95 vengono firmati altri tre accordi specifici. Allora, però questi accordi erano solo dichiarazioni di principio o dichiarazioni preparatorie, in altre parole i negoziati sostanziali e definitivi erano lasciati al futuro. E quindi le questioni più importanti, lo status di Gerusalemme, gli insediamenti dei coloni, i confini e il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi, erano state lasciate da parte. Quindi questi accordi di Oslo non riconoscevano nemmeno il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, né menzionavano il ritiro di Israele da tutti i territori occupati nel 1967. Fu creato in questa occasione un nuovo organismo ad interim di 5 anni che in teoria avrebbe dovuto essere il seme di un futuro Stato palestinese, e cioè fu creata l'Autorità Nazionale Palestinese. Però questa nuova istituzione fu imposta alla popolazione palestinese dal tandem USA-Israele come un progetto prezzolato privo di competenze, e il prestigio, infatti, il suo prestigio e la sua legittimità tra il popolo palestinese sono crollati. Inoltre Oslo e gli accordi successivi al 93 hanno diviso la Cisgiordania in tre aree, la A, la B e la C. Praticamente solo la A doveva essere completamente amministrata dall'Autorità Nazionale Palestinese, mentre le altre aree dovevano essere amministrate civilmente, diciamo, dall'Autorità Nazionale Palestinese, ma militarmente dallo Stato di Israele, e addirittura l'area C completamente amministrata dallo Stato di Israele, quindi di fatto un'area di occupazione. E quindi con queste aree lo Stato di Israele ha ottenuto il controllo della maggior parte della Cisgiordania. Allora, che cosa implicano quindi questi accordi di Oslo? Implicano che i firmatari palestinesi avessero accettato che il regime di apartheid israeliano controllasse circa il 90% della Palestina storica, non solo de facto, come era già avvenuto in seguito alla conquista militare dopo la guerra dei sei giorni del 67, ma questa volta con la loro firma. Difatti, diverse organizzazioni palestinesi e non rifiutano questi accordi, e questi accordi vengono firmati da Arafat, e questi accordi vengono duramente criticati anche da figure come Mahmoud Darwish ed Edward Said. Ma insomma, gli israeliani continuavano ad aspirare al maggior territorio possibile, con la minor popolazione palestinese possibile e avrebbero combattuto con tutte le loro forze contro l'idea di uno Stato palestinese, anche se su un territorio pari a poco più del 10% della Palestina storica e senza nemmeno continuità territoriale. Tra questi emerge Benjamin Netanyahu, che sale al potere nel 96. Qualche mese dopo l'assassinio di Rabin da parte di un sionista israeliano contrario ai negoziati. Allora, oggi, arrivando all'oggi, ci sono circa 700.000 coloni israeliani in Cisgiordania e il 2023 è stato l'anno in cui hanno compiuto il maggior numero di attacchi contro i palestinesi. Sì, e poi appunto il Jorge Ramos Tolosa continua il suo articolo così commentando questa cosa, che lui dice che nel 2005 la società ebraica israeliana ha vissuto un grande confronto interno e un trauma nazionale, lo dice anche così, diciamo in maniera ironica anche se amara, quando gli 8.000 coloni che occupavano Gaza sono stati trasferiti dagli insediamenti appunto di Gaza a quelli della Cisgiordania. Allora, in questo modo, lui dice, il regime di apartheid israeliano ha potuto dimostrare di aver già concesso tutto ciò che poteva concedere, cioè uscire da Gaza, contemporaneamente dichiararla terra ostile, entità ostile, e quindi da qui ha potuto infierire insomma su quel pezzo di terra bombardandola massicciamente, come in effetti è accaduto nel 2008, 2009, 2012, 2014, 2018, 2021 e come sta accadendo ora in maniera totalmente devastante. Allo stesso modo è assurdo imporre dall'esterno la soluzione dei due stati, come ha sostenuto Borrell, mentre si è complici di coloro che distruggono ogni possibilità di attuarla sul terreno e delle loro politiche genocide in corso. Il 18 gennaio 2024 Netanyahu ha nuovamente chiarito che non accetterà mai uno stato palestinese, che Israele deve controllare tutto il territorio dal fiume al mare. 10 giorni dopo, migliaia di israeliani, compresi i ministri, hanno apertamente incitato alla pulizia etnica della striscia di Gaza e hanno celebrato la propria pretesa di ricolonizzazione di questo territorio palestinese. Quindi, oltre ad essere coloniale e ingiusta, la soluzione dei due stati è una soluzione impraticabile e quindi non è una soluzione. E non si può sprecare né energia né tempo per una cosa del genere. Direi che è una... sono parole ipocrite, insomma, quelle dei governanti anche della comunità internazionale che adesso ritirano fuori questa questione del due popoli, due stati. Borrell e il resto dei leader del nord globale, se hanno ancora un po' di umanità, sanno perfettamente che la cosa più necessaria e urgente è fermare il genocidio israeliano in Palestina, e questo si potrebbe ottenere facendo pressione su Israele attraverso la fine della vendita di armi, di tutte le relazioni accademiche, culturali, diplomatiche, economiche, istituzionali e di sicurezza, compreso l'accordo di associazione Unione Europea-Israele, espellendo Israele dall'Eurovisione come hanno fatto con la Russia in un solo giorno e sostenendo la denuncia sudafricana per genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. Vabbè, questi poi sono, diciamo, conclusioni che Jorge Ramos Tolosa prende e che magari dal nostro punto di vista così lasciano un po' anche il tempo che trovano, volendo, essendo soluzioni legaliste, ma abbiamo voluto così proporre questo articolo perché comunque inserisce insomma quello che sta succedendo in questi mesi in una prospettiva più ampia e secondo me lucida appunto delle responsabilità non solo dello Stato di Israele ma di tutto l'Occidente e anche dell'ONU. E niente, per questa sera i contributi politici, diciamo, terminano qui. Vediamo appuntamento per il prossimo giovedì, prima di lasciare la parola alla regia per dare contatti. Stiamo così ascoltando questa band statunitense, loro sono i Roach Motel, band che è esistita nella prima metà degli anni 80, e anzi noi stiamo ascoltando questi brani, probabilmente anche registrazioni differenti tra loro, perché si tratta di un album 12 pollici uscito all'incirca una quindicina di anni fa, 10-15 anni fa, rimasterizzato, anzi tra l'altro era uscito nel 2001 con una rimasterizzazione di tutti i loro brani, perché questa band ha fatto uscire solo 2-7 pollici, poi hanno preso anche alcune tracce live e rimasterizzato nel 2001 e ulteriormente rimasterizzato all'ennesima ristampa di questo album nel 2011. Che altro dire, ben sconosciuta di Florida, Roach Motel, che comunque all'epoca ha suonato credo con tutte le band più grandi, cioè molto conosciute poi negli anni successivi, e comunque band di un alto livello del punk hardcore dei primi anni 80 statunitensi, so che l'ho detto sbagliato, comunque dai. Comunque, lasciamo perdere questi Roach Motel, siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì, diretta radio dagli studi di Radio Onde Furlane, qui da Udine, oggi giovedì 22 febbraio. Ricordo i nostri contatti, scrivendoci tramite posta elettronica potete intestare cioè scrivere alla casella postale libere tutti @autistiche.org, oppure scrivendo in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. Potete riascoltare questa trasmissione e quella delle volte scorse andando a cercare in rete zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ricordiamo che domani siamo in replica su Radiazione, che è una web radio, dalle ore 17. Bene, questo è proprio il termine. Vi lascio ancora con questi Roz Motel. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. Bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bumpers, bump